Posso che come la 10 ora fare una passeggiatina col cane, ancora per poco, poi già c'è il suo spazio, a Braiana esce la Giura, che non ha già medicato le birre. Va bene, beh, ciao Giulio, allora buona guarigione, buon tutto, grazie delle chiacchiere, ciao Lugari, anche a te, se coincide ci sentiamo più tardi, tanto se sei a casa, vi facciamo ogni tanto, ci facciamo le chiacchiere più tardi. Ciao, buon proseguo a tutte e due, e saluto chi mi ascolta sul canale 10. Avanti Giulio. Ok, ciao, ciao qua. Grazie a te per le chiacchiere, ci sentiamo io anche io, tanto sono già le 8:10. Me ne scendo giù in cucina, tanto adesso parlano molto parecchia mia moglie, per cui ceniamo anche. Vabbè dai, ciao Luca, salutoni anche a te, grazie anche a te la chiacchierata, chiudo l'ascolto finale e chiudo, vai Luca. Ehi, dai, ciao Giù, riprenditi al più presto, mi raccomando, e magari cerca di fare... Mari, meno passaggi, lo so, quando sei in radio ti viene la voglia di parlare e poi ti succede questo coso qua. Vabbè, dai, ciao crack, a te, già sono qua, io mi nascosto. Senta la bombolina dopo, senta qualcuno, adesso vado a mangiarmi qualcosa pure io. Dai, buona cena e alla prossima, Giulio, ciao. Ciao a tutti, un saluto, ciao a tutti. Ciao, ciao, anche a Marcolino, ciao, ciao a tutti e due, vedi, sentiamo dopo, ciao Marcolino. Io sono entrato a salutare, dai, io qua rimane acceso, ma non è inutile che io stia anche in ruota perché rispondo una volta su 10, eccetera, dai, non c'è più voglia tanto da parte mia. E ho lo stesso problema di Giulio, un po' le corde vocali, ogni tanto basta appena di aria fresca e mi crepa subito e mi affatico le corde vocali. Bene, dai, rinnovo i saluti a tutti, anche a quelli all'ascolto. Ciao, buona serata, riprendi Luca, ciao. Ciao Marco, ciao anche a te. Ciao Marco, ciao. Ciao, ciao Marco, lì, ciao. Andiamo. Andiamo dopo, Lugaria, dai, mi sto preparando a portare a Peppe, e poi già siamo qua di nuovo, ok? Ciao. Sono rientrato, adesso ho fatto qualcosa a fare in cucina. Che fruscendi oggi? Ciao a tu. Ui, buonasera, buonasera, ebbene. Vanno, adesso funziona ancora, vai. Hai forza, deve funzionare. Sì, sei forza. Insomma, come tre cose si possono guastare, non è che... Il foramare. No, deve funzionare sempre. Deve funzionare, non si può guastare. Sempre, sempre, sempre. Ciao, caro. Lui, ciao a te, buonasera, ben ascoltato. Sì, in mezzo a ballare familiare, dai. Quello che sta facendo i compiti, gli altri che stanno fischiettando. Ehi, va bene, dai. Io sono solito adesso a portare il cane, sto preparando. Adesso mi guardo il TG e poi ceniamo, dai. Ciao raga, è tutto acceso qua, ci sentiamo. Bene, mi stai ascoltandoti? Sì. Diciamo di verso da solito, però va bene. Cosa vuol dire di verso da solito? Il 430, cosa c'è di diverso? Un pochino troppo amplificata, però va bene. Ah, troppo amplificata. Basta dirlo, la baciamo un pelino, la baciamo così, così bene va. Così è perfetta. Perfetto, mi sto facendo spaventare, cazzo, che arrivi da una sera rimane, che radio. Sono andato a fare un po' di lavoretti, di revisioni, dai. Va bene, ciao anche Antonio e ci sentiamo dopo se ci siete, ciao. Capo, una gannonata una gannonata funziona bene, va benissimo. Capito, una gannonata. Anda bene qua, dai. Già siamo qua, forse. Io devo uscire a prendere Gabriele, però non so quando mi chiama. Ehi, adesso già sono qua anch'io. Però vedi Antonino è più attento e tu non mi hai detto che era troppo alta, lui è abituato a sentirmi. L'ho abbassato appena, infatti ce l'avevo a 2,5, indichi che volevo tenere a 2. Va bene, a dopo ragazzi, ciao ciao, vai Anto. Ciao. me piaceva così. Lo so, ma è fastidiosa, è troppo forte e fastidiosa. Tino già la conosce bene la mia modulazione del capo, dai. Va bene, riprenditi, vado a cenare, ci sentiamo dopo, ciao. Va bene, però sono qua, mi guardo un pochino il PC, adesso se faccio qualche cosa di novità, dopodiché niente, devo uscire a prendere la Gabriele e poi anche noi a cenare. Va bene, siamo qua, nel caso, siamo qua. Antonio. Kappa, dai, ciao Cla! Vai, ci sentiamo! Bella mossa, uno è uno di stazionari, si deve andare a Goggia. C'ho il strumento attaccato, c'ho. Ma vabbè io. Non ne uso, dopo devo utilizzare un accortatore, però per l'altra radio adesso non mi interessa. Capo, no, io qualche volta lo tengo attaccato, lo tengo perché. Già mi disegnare a Burinoghi, non è che non c'è problema, però ogni tanto mi piace utilizzarlo, mi piace vedere anche quando sto uscendo di batter, capito? Ho comprato questo, funziona come una meraviglia, non lo credevo manco io che funzionasse così bene. L'ho tarato da ieri, l'ho provato pure oggi e ha tenuto la stessa tarazione, ha tenuto. Meno male, va, pensavo che ero peggio. Va bene. Kappa. A manco questo 203 mi sembra che sia nato bene, mi sembra. Tanto io non so cosa tu stai adoperando, però già la radio insomma già è accettabile, è buona. Kappa, un bel apparecchio sto adoperando, un bel apparecchio. No, stavo guardando questo 203 della Delta Giga, ho attaccato per vedere com'è. Va bene, caspita, sto guardando le stazionarie. Vabbè che ce l'ho anche qua, però ogni tanto lo attacco, sai, che per vedere un po'. Ciao. Hai zitto. Prendi il telefono. Tanto scusami, ti devo mollare che devo leggere un'email, è importante, dai, che è arrivato il lavoro, quindi devo stare attento un pochino. Anche il volume della radio, dai, ci sentiamo più tardi nel caso. Capo, dai, ti mando una foto, ti mando. Sì, va bene, presumo già con la tua, tu stia autorizzando, però va bene, non mi esprimo. E quello ha detto che poi che mi so più. Ma c'è? Chi è? Bamboli. Oi, ciao, e beh. Rientrato alla base, sì. Ciao, rientrato. Gli avremo gonfio due, Cosa tu? Già sei gonfio, già ti spiego. Non qua, ma già ti spiego. Ah, è arrivata che cosa tu? Ehi, una cosa. Ma di radio? Ehi. Cava. Cava. Mi moria trama. E allora, che si dice Antù? Che si dice? Ruia. Che si dice? È entrato. So come. Crack, non la giugana, capito? Poi quelle giornate è proprio del capo che non è buia. Per carità. Ragana, capito? Beh, ama la orza. Cappa, fai forza. E tu come l'hai trascorsa? Io mi facendo commissione, Antò, a destra e a sinistra e sono entrato adesso. Cappa, io mi la stessa cosa. Tutto già lavorando. Mi so che cracco un isogo. Comunque già è così quella situazione là, ha pigliato pure un altro, si è avviato, ha già visto che erano Continente c'è la bocca di delle bombole, poi c'è mai col marito, lui cade e va in giro. Ma deve essere che sono male bagatori, oltre a quello che se ne va, deve essere che sono fugaretto. Non c'è più così, Antu. No, non c'è più, no, ma mi sono accorto che non è pigliato un altro e ci stai avviando lo mattese. Qualcosa c'è di strano, eh. A me qualcuno mi ha riferito che chi si paga 20 euro alla ditta che date. Il cavolo. Fisso? Eia! Avete gira a me gli yo-yo, cioè non so lavori da fare, devi prendere l'operaio assicurato, devi prendere, se ne ingaggi la bomba si c'è bideggia, è un casino, eh. Eh beh, e 20 euro al giorno, tanto sono pochi, così è. Ti accontenti, però ti farò puro, cioè lì non penso si lavori molto, però devi fare il culo. Vabbè. Oh, se fai adesso 4-5 consegne anche la giornata, 20 euro vanno bene. Cappa. Sì, già vanno bene, già. Cioè, diciamo che vanno bene, però la gente, il lavoro lì bombole sono pesanti, niente, no, non ribiardi, no, travaglia. Però non, Daniel, chi si travaglia bisogna fare una certa maniera, non così, no, ho venuto da Ivano. Cioè, se è una persona che non ha esperienza, sono ragazzini qua, si muove c'è i bidà, cazzo da voi, ne viene la pulizia in Kiwi, cioè. Oh, cioè, andi in chi va a ripidare, cosa ridi? Dimmi cosa ridi. Lo so, Anto, lo so. Oh, 20 sono poche, anche se ne fai 5, 4, quello che è. Perché, insomma, il lavoro è anche leggero. Quello minimo sono da 40 euro al giorno, minimo. Sì, 40 euro va bene. Va benissimo, va. Cioè, però no. Io penso che quel tipo di lavoro lì, cioè se tu ti rischi il culo a me, tu pigli un operaio, lo devi assicurare e dargli quello che gli devi dare, punto e basta. Perché se cade che si fa male, si, ma guardate ti cacci da ricare, si va di mare, tu sei coperto. Non vai nessuno a romperti le palle. Senti, se l'operaio gaggi e si fa zimare e interviene l'ambulanza, non è assicurato, cazzo, prima al pronto soccorso gli fanno un rapporto, sono cazzi amari, guardate cosa siamo fammi dente. Beh, è certo che sì, Anto, poi passa brutti quarti d'ora il titolare, poi altro che guadagnare, cioè ci rimette di tutto e di più, ci rimette. Poi gente che non ha esperienza, tu ti vedi a mullare le bombole così. Io non me lo fermi che per niente casa che me la roba di libri vecchietti che si è ammazzato a me. Cioè, ne va. Ne è fuori dalla bombola. Oi. Chissà adesso la cosa ci dà, nuovo giro, nuova cosa, lo vedremo alle prossime puntate. Ma guarda Nico, ancora secondo quel lavoro, buone. Tu devi pigliare e lo devi pagare, l'operaio, è poco di qua. Cioè non vedo buffone anche se cose, no? E certo che no, Antu. Ioia. Va bene Tony, io ti lascio adesso che vado a fare un po' di ricarichetta, dai. Ci sentiamo dopo, alle prossime se coincide. Ok, dai. Buon proseguimento e buon tutto, tanto dai. Buona carica se non l'hai ancora fatta. E a più tardi, dai. Ciao. No, già mangiato io, che mia moglie li prepara. Prepara il ghiaccio, perché come arriva al lavoro io voglio mangiare. Giustamente. Ehi Anto, dai, ci sentiamo dopo se ci siete, dai. Ehi, ciao, ciao, dacci dopo. Hola. Ehi, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Attenzione, binario 10, c'è qualcuno, K.